Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questo appuntamento pre-pasquale ci proiettiamo in qualche modo all'estate con due iniziative. Una è estiva, nel senso che la scadenza nel corso dell'estate, 21 luglio 2017, la scadenza per un bando di concorso, un premio in memoria di Don Giovanni Nervo e Don Giuseppe Pasini. È la seconda edizione di questa iniziativa. Ricorderete che il 21 marzo scorso è stata celebrata la giornata di ricordo appunto dei due sacerdoti padovani tra i fondatori della Caritas italiana, occasione in cui poi è stato presentato il rapporto 2017 sulla povertà curato dalla stessa fondazione Zancan. C'è un nuovo bando che riguarda proprio questo premio dedicato a Monsignor Nervo e Monsignor Giuseppe Pasini. Loro due hanno dato notevole impulso agli organismi Caritas e Fondazione Zancan, impegnandosi a promuovere lo studio delle tematiche concernenti la carità e solidarietà in ambito ecclesiale e civile. Il premio è stato istituito nel 2015 in loro memoria con l'approvazione della segreteria generale della CEI in forma di 4 borse di studio e di ricerca, e arriva alla seconda edizione. La finalità del premio è duplice: promuovere lo studio e la ricerca su tematiche attinenti alla carità nei risvolti teologico pastorali, sociali e civili, e onorare l'opera e il pensiero di Monsignor Nervo e Monsignor Pasini, sostenendo l'insegnamento e la riflessione sulla carità e la solidarietà all'interno delle realtà formative, facoltà teologiche e istituti di scienze religiose. Per attuare e promuovere l'iniziativa del premio viene costituito un comitato cui spetta anche la responsabilità di assegnazione della borsa di studio. Il comitato, composto dai promotori e finanziatori dell'iniziativa, è formato da un delegato di Caritas Italiana, un delegato della presidenza della CEI, responsabile del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e Scienze Religiose, un rappresentante della Fondazione Zancan, presieduta sia da Monsignor Nervo che da Monsignor Pasini in passato, e da un delegato del Vescovo di Padova. Entrambi infatti appartenevano proprio alla nostra diocesi. Possono concorrere a questa borsa di studio quanti sono in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, o iscritti a una laurea specialistica in qualsiasi area disciplinare, provenienti da facoltà teologiche o istituti superiori di scienze religiose, da istituzioni universitarie laiche presenti in Italia. I temi, come detto, possono essere di carattere sistematico o storico-esperienziale, attraverso l'approfondimento di questioni rilevanti dal punto di vista teologico, pastorale o socio-culturale. Lo studio può riguardare anche prassi realizzate da persone, enti o chiese locali. Per concorrere all'assegnazione della borsa di studio deve essere presentato un progetto di 4 pagine, circa 8.000 battute, un progetto che dovrà svolgere la tematica scelta all'interno di 20-30 pagine, accompagnato da una lettera di presentazione della responsabile dell'istituzione accademica di riferimento o della Caritas diocesana. La documentazione deve essere presentata al comitato del premio, indirizzando tutto via anche via PEC a Caritas Italiana entro, come detto, il prossimo 21 luglio. L'importo complessivo della borsa di studio, di durata annuale, di 5.000 euro lordi. L'importo sarà erogato in 2 quote di pari importo: la prima all'approvazione del progetto, la seconda alla consegna della stesura finale. La borsa di studio non è cumulabile con redditi derivanti da occupazioni a tempo pieno. Tutti i dettagli si trovano su caritasitaliana.it, cercate premio Nervo Pasini 2017. Vi segnalo anche, sempre proiettandoci all'estate, un appuntamento, un pellegrinaggio di carità e giustizia della Caritas diocesana di Padova dal 5 al 12 settembre in Terra Santa, accompagnati da Don Nandino Capovilla. I posti sono limitati, il contributo è di 650 euro, a cui bisogna aggiungere il costo del volo. Vi do anche qualche informazione sul programma che che ricalca, ma non del tutto, quei pellegrinaggi tradizionali in Terra Santa. Dalla partenza martedì 5 settembre, il ritorno martedì 12, si passerà ad esempio nei villaggi beduini minacciati di deportazione sulla strada da Gerusalemme a Gerico. L'incontro al patriarcato latino, con il vescovo cattolico, con un soldato ebreo israeliano e con i rabbini per i diritti umani. E poi l'esperienza di Betania con i migranti respinti nel deserto. L'itinerario poi tra i luoghi santi, le tracce di Gesù a Gerusalemme, poi passando per Nazareth, Galilea, Cafarnao, Betlemme, dove appunto sarà visitata anche l'ultima collina senza coloni, passando poi anche a Hebron, città assediata dai coloni, per Beit Jala, incontrando una cooperativa fatta di sole donne, poi anche il campo profughi di Aida, le suore del Caritas Baby Hospital. Insomma, è un viaggio in Terra Santa, un pellegrinaggio di carità e giustizia. Si svolgerà dal 5 al 12 di settembre. Le iscrizioni sono aperte. Segreteria @caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.